Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E andremo avanti fino alle ore 21:30 e stiamo trasmettendo sui 90 MHz. Bene, questa era la trasmissione, cioè no, era, è la trasmissione Zardins Magnetics e, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30. Abbiamo ascoltato la sigla iniziale di questo programma che è Retribution dei Behind Enemy Lines e, come già detto prima, siamo totalmente in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ora andiamo all'ascolto di una band che è esistita all'incirca una decina d'anni fa, tra, diciamo, tra i 15 e i 10 anni fa, forse meno di 10. Comunque loro sono dell'area di Treviso, i Gelo, e ci ascoltiamo un paio di brani da un loro album EP, un EP 12 pollici, datato 2011, ed era uscito con la band slovena i Bacayaro, e tra l'altro questa band fece il gelo appunto di Treviso, un altro album 12 pollici però assieme ai croati Homo Homini Lupus. Comunque noi ci ascoltiamo un paio di brani per questa band di Treviso, i Gelo. Come on. Yoibe 21 di avril, Zardins Magnetics, benvenuti a tutti che sono in ascolto. Un saluto a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 21 aprile. Andremo alla lettura di qualche aggiornamento sulla situazione delle carceri. Vi ricordo che questa è Zardins Magnetics, è una trasmissione radiofonica realizzata da un'assemblea contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste. Aggiornamento dalla campagna contra is presonis nisciuno est solu. La testimonianza vivere e morire nel carcere di Utah rende bene l'idea di quella che è la situazione detentiva nel penitenziario cagliaritano, che ad oggi si conferma una delle carceri più dure dello Stato italiano, sicuramente il peggiore in Sardegna. Il sovraffollamento, la collocazione extraurbana, la direzione e il corpo di guardie compongono un quadro particolarmente spiacevole che viene completato da una silenziosa complicità del personale civile. Negli ultimi mesi la campagna contra is presonis nisciuno est solu ha provato a rompere la barriera di silenzio e paura che negli ultimi 8 anni di esistenza di questo carcere si è creata intorno alla struttura. Le poche crepe aperte grazie a piccole forme di complicità con detenuti e parenti hanno subito fatto emergere il fetore di una gestione carceraria fatta di botte, sevizie, angherie, soprusi, complice omertà fra secondini e direttore, per non parlare dell'abuso sistematico degli psicofarmaci per sedare i reclusi. Non sappiamo quante siano le morti avvenute nel carcere di Utah, perché quando a suicidarsi sono prigionieri stranieri, spesso anche i giornali tacciono. Succede anche che i prigionieri vengano portati già morti in ospedale per non far risultare la responsabilità delle morte al carcere. Una cosa che abbiamo capito bene è che le guardie non accettano nessun tipo di espressione di solidarietà nei dintorni del carcere e la loro prepotenza rispetto a chi si avvicina rende bene l'idea di quella che è la situazione dentro. In questi ultimi 8 mesi noi della campagna siamo andati diverse volte fuori dal carcere a volantinare i parenti o a salutare i detenuti e per questo siamo stati fermati, identificati, ci hanno perquisito le auto e minacciato dicendoci che quello è il nostro territorio, che noi non ci possiamo andare. Una volta siamo stati anche inseguiti in macchina da 2 secondini particolarmente nervosi. Nervosi. Un'altra novità riguarda le vaccinazioni all'interno della struttura. Prima di continuare, guarda caso una cosa del genere è successa anche qualcuna di noi tempo fa, insomma, che ci trovavamo fuori nei dintorni del carcere in orario di visite dei parenti e sì, che qualcuna di noi è stata inseguita dagli scalmanati energumeni, così diciamo, in uniforme. Un'altra novità, dicevo, riguarda le vaccinazioni all'interno della struttura. A quanto pare un'altissima percentuale di prigionieri, circa il 95%, ha dato assenso positivo all'inoculazione del vaccino. È interessante, a nostro avviso, vedere la reazione del mondo istituzionale a questo evento. Il direttore del carcere cagliaritano, Marco Porcu, non perde occasione per fare propaganda sull'apparente gestione impeccabile dei protocolli Covid che hanno permesso di evitare la nascita di focolai all'interno del carcere. Delle sempre più frequenti morti per altre cause, invece, ovviamente non parla. C'è da chiedersi se i reclusi di Utah vedano e sentano la possibilità di vaccinarsi come una scelta o un obbligo. Effettivamente, viste le condizioni di sovraffollamento delle celle, la noncuranza delle guardie, sono diverse le testimonianze giunteci di guardie che non usano la mascherina, e le generali condizioni della sanità carceraria, non stupisce che l'inoculazione del vaccino venga vista come un obbligo per provare a salvarsi. Sarà interessante vedere se il vaccino, almeno, eviterà i 15 giorni di isolamento cui sono ora costretti i prigionieri che vengono trasferiti temporaneamente o anche solo per un processo. Intanto, noi continueremo a mobilitarci a tornare sotto le mura del carcere di Utah per accorciare le distanze imposte dalle sbarre e per non stare zitti davanti alle violenze del sistema carcerario. Ci piacerebbe riuscire ad allargare lo sguardo anche ad altre strutture penitenziarie in Sardegna, perciò chiediamo a chi ha notizie e proposte di farsi avanti. Ovviamente questa contra is presonis nessuno e solo era un aggiornamento che vi ho tratto da una pubblicazione, un opuscolo, diciamo un periodico che si chiama Nur Kuntra e che viene diffuso soprattutto nell'isola, diciamo, della Sardegna, e quindi ovviamente naturalmente le compagne e i compagni cercano di relazionarsi con i loro compaesani. E direi che adesso io vi lascio un attimo riposo, sì, insomma, fra un po' ci risentiamo fra poco, insomma, e lascio andare un po' la musica. Stiamo ascoltando gli Equivor, questo duo australiano olandese, da un loro album che raccoglie, diciamo, i loro primi anni di attività. Mentre prima dell'intervento avevamo ascoltato i Gelo, band di Treviso, una loro uscita del 2011, comunque band che si era sciolta e che i componenti delle varie band, cioè di quella band, fanno parte di altrettante band attuali sparse tra appunto la zona di Treviso e il Trentino. Comunque rimaniamo all'ascolto degli Echo War. Sì, continuiamo con un altro, diciamo, voglio leggervi ancora un intervento un po' più recente, questa volta l'ho tratto dal blog Maestrali, comunque insomma, si parla sempre di Sardegna. Non esistono eccezioni. Ultimamente nei giornali sardi si parla molto della situazione delle carceri, gli articoli vanno da quelli soliti piagnucolosi dei secondini, che chiedono più sicurezza e più assunzioni contro i detenuti aggressivi, fino alle lagne della magistratura di sorveglianza di Cagliari che si lamenta del troppo lavoro e delle troppe persone in libertà, mentre potrebbe accelerare la loro incarcerazione. Ogni tanto però escono fuori storie diverse, pur con molta difficoltà, infatti raramente vengono portate alla luce dei giornali, eccetera eccetera. Insomma, parla del fatto che è uscito sull'Unione Sarda la notizia di una, insomma, di un pestaggio da parte di 9 agenti. I pestaggi sono frequenti, ma raramente vengono messi in prima pagina con tanto di nomi dei colpevoli. Altri centinaia di fatti testimoniano la connivenza di chi costituisce l'apparato carcere, dal direttore e i segretari, per passare agli assistenti sociali e finire con i medici e il personale sanitario. Sembra ancora più dura riuscire a far conoscere a chiunque cos'è il carcere, se non quando i detenuti stessi decidono di chiedere di più e usare i mezzi più consoni per prendersi ciò che vogliono. Poi ci sono, diciamo, un riassunto di una lettera arrivata dal carcere di Massama, insomma, con una firmata da 160 detenuti. E la lettera è stata inviata anche al ministro di giustizia, e tra l'altro si parla di una situazione, insomma, della quotidianità che riguarda tutte le carceri. Tra l'altro colgo l'occasione anche per riferirmi anche a chi potrebbe essere in ascolto da una delle due prigioni che ci sono qui in Friuli, cioè ovviamente togliendo Pordenone, che è un carcere abbastanza piccolo, e non so se ci ascoltano là, comunque via Spalato a Udine e il carcere di Tolmezzo. Quindi qua si parla di solite situazioni, solite fra virgolette, celle sovraffollate, lavatrici, asciugatrici rotte, docce non funzionanti, difficoltà per acquistare beni fuori dal carcere, sopravvitto carissimo. D'estate le celle raggiungono i 50 gradi, il direttore non autorizza l'acquisto di ventilatori, altro che aria condizionata, sì, cioè ventilatori si parlano. Però è stata inviata una lettera, ma i detenuti hanno dato l'ultimatum il 10 novembre per risolvere questa situazione, si parla appunto di un po' di mesi fa. Da UTA è arrivata una lettera con vari documenti che descrivono minuziosamente le varie problematiche riscontrate dai detenuti. Parentesi, UTA quindi è il carcere più vicino a Cagliari. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto faccia schifo il carcere e di come non si tratti di tristi eccezioni. Qui sotto riportiamo le problematiche riferite. La vigilanza dinamica, pur essendo ufficialmente in vigore, non viene applicata. Le celle sono aperte dalle 8 alle 20 solo per i lavoranti. Traduzione vuol dire che le celle sono chiuse, sempre, tranne l'aria. I detenuti hanno fatto una media dei ritardi continui della magistratura di sorveglianza di Cagliari nel rispondere alle pratiche riferite a liberazione anticipata, media 35 giorni per ricevere risposta, permessi premio, media 5 mesi, affidamento, media 6 mesi. Domiciliari, media 6 mesi, colloquio con un magistrato, media 2 mesi, ricorso al tribunale di sorveglianza, 6 mesi, reclami presentati alla magistratura di sorveglianza risultano per lo più senza risposta, tanto da non poter fare una media. Questa dilatazione del tempistica necessaria per ottenere tali autorizzazioni dimostra la scelta della magistratura di Cagliari di tenere i detenuti nelle celle più tempo possibile. A rendere ancora più difficile la condizione detentiva c'è la mancanza della nomina del garante dei detenuti per il carcere di UTA. Ovviamente non finisce qui, nella lettera si trovano disagi riferiti alla struttura del carcere, simili se non uguali a quelli di Oristano. Centro clinico privo di finestre, presenti solo vasi stas senza scuri. Finestre prive di guarnizioni, detenuti soggetti agli spifferi e alla pioggia. Nei bagni delle celle non ci sono bidet, diversamente da quanto dichiarato dal direttore alla magistratura di sorveglianza. Sovraffollamento delle celle. Acqua calda erogata solo in certi orari, a causa dell'utilizzo dei pannelli solari, tra l'altro. Il cortile non è accessibile ai detenuti anziani, con patologie ossee o invalidi, per mancanza di posti a sedere. Simile a Oristano sono anche le lamentele sulle attività trattamentali, col Covid tutte sospese, possibile frequentare la biblioteca un'ora per sezione, chiusura della sala in cui erano presenti 10 PC collegati a una rete interna, teatro chiuso. Sono ricorrenti anche le problematiche relative al sopravvitto. Alcuni beni alimentari hanno visto un rialzo di prezzi, come il pomodoro insalataro che passa da 1,99 al chilo a 2,99. L'acquisto del... beh sì, qua si parla di novembre. L'acquisto dell'acqua è contingentato, il prezzo per una confezione di acqua minerale è 2,46. Questo fatto risulta ancora più grave dato che l'acqua che scorre nelle tubature non è potabile nel carcere. Non è possibile l'acquisto di farina e lievito, non sono venduti quotidiani a prezzi più economici. Sole 24 ore, Milano Finanza, Italia Oggi. Altre problematiche vengono elencate, le ricevute e le raccomandate non vengono consegnate, difficoltà nel chiamare per prenotare i colloqui, non vengono consegnati gli scontrini dei medicinali che permetterebbero una detrazione fiscale, non vengono consegnati i CD allegati alle riviste o ai testi, il montacarichi viene utilizzato per lo spostamento della spazzatura, per i carrelli portavitto e per le barelle dei malati. Ecco, questo era un aggiornamento sulla situazione del carcere di Utah e direi che ascoltiamo un po' di musica ancora. Prossi. E stiamo ascoltando in sottofondo i brasiliani Ratos de Porão da questo loro mini album datato 2000, Guerra Civil Cannibal. Que passa, cara? Everyone is all the world. passiamo adesso a un altro argomento, un aggiornamento sulle operazioni repressive in corso ancora in Sardegna. Ricordo ancora che stasera vi sto leggendo, prendendo dei testi da Nur Kuntra, periodico di storie, di lotta, di conflitto e prospettive anticapitaliste in Sardegna e oltre. È un periodico che potete chiederci anche a noi, ce l'abbiamo in distribuzione, scrivendoci o diciamo quando ci vedete in strada per varie iniziative. Lotte contro le basi, repressione e rilancio, un aggiornamento. Quest'autunno, nel bene e nel male, ha segnato un ritorno della questione dell'occupazione militare della Sardegna. Processi e lotte si sono alternati da settembre in poi. Proviamo a fare ordine. Il 14 settembre si è conclusa presso il Tribunale di Cagliari l'udienza di rinvio a giudizio del processone Lince. La GUP, nonostante la poca attinenza delle prove fornite dalla Procura rispetto ai capi di imputazione proposti, ha rinviato tutti a giudizio, mantenendo i capi d'accusa di terrorismo per 5 imputati e la conseguente aggravante per un'altra 20. Gli imputati portati a processo sono 39. Il processo si svolgerà in corte d'assise. Il 6 dicembre era fissata la prima udienza per l'istruttoria, saltata per un legittimo impedimento di uno degli imputati. La prossima udienza è fissata per il 31 marzo. A inizio ottobre, l'Assemblea degli indagati e solidali del processo Lince ha lanciato un corteo in risposta alla repressione e di rilancio delle lotte a Capofrasca per il 19 dicembre. Il 27 ottobre, dopo poco più di dieci mesi di attesa dall'udienza, è arrivato il rigetto delle richieste di sorveglianza speciale, richieste dal PM Guido Pani, nell'ottobre 19. Il 1 novembre, nonostante delle previsioni meteo avverse, circa 200 persone si sono ritrovate a Porto Tramazzu, propaggine sudorientale del poligono di Teulada, per una marcia contro il poligono. L'intento della giornata era quello di documentare lo sfacelo e il degrado lasciato dai militari nella ex zona militare del villaggio americano, sulla spiaggia e nella zona retrostante, usata per varie esercitazioni di tiro. Nonostante il notevole dispiegamento di forze dell'ordine e le cariche effettuate nella spiaggia, diverse persone sono riuscite a entrare in territorio militare. Il 19 dicembre si è svolto il corteo a Capofrasca, in risposta alla repressione delle lotte contro le basi e per il rilancio delle lotte. Preceduto da presentazioni in diversi paesi vicini e lontani dal poligono, ha avuto una partecipazione di diverse centinaia di persone, che può essere considerato un buon risultato per alcuni aspetti e uno stimolo a migliorare il lavoro di pubblicizzazione e coinvolgimento per altri. Il lavoro coordinato delle varie questure della Sardegna ha portato a Sant'Onio di Sant'Adi centinaia di sbirri di vari corpi, elicottero, idrante, polizia militare, eccetera. Nonostante questo imponente dispiegamento di forze, ancora una volta la determinazione dei manifestanti ha avuto la meglio, trovando attraverso la campagna il modo di arrivare alle reti e far cadere diverse decine di metri. Qui di seguito un racconto della giornata tratto da Maestrali, che, come ho già detto, blog. Il corteo a Capofrasca è iniziato all'alba con un presidio nei pressi del cancello d'ingresso alla base. Una 30 di persone ha montato un gazebo e imbastito una colazione. Da lì a poco le pantomime poliziesche non si sono fatte attendere. un gruppo di Digos, preso in contropiede da una presenza così mattutina, si è avvicinato sostenendo che la via autorizzata al corteo fosse una fantomatica inesistente, via Mar Lonio, e che dovessimo quindi andarcene. Il presidio è rimasto lì, determinato a attendere i pullman e tutto il corteo, nonostante la poco efficace ma pressante diplomazia dei questurini. Nel frattempo, decine di sbirri di tutti i corpi e di tutti i colori giungevano più o meno alla spicciolata all'interno del poligono militare, idrante e elicottero compresi. In tutto, tra militari e sbirri vari, saranno stati qualche centinaio. Alle 11.30 circa il concentramento ha preso forma e poco dopo anche il corteo, composto da circa 400 persone, partiva cercando di raggiungere il presidio, che nel frattempo era stato isolato da cordoni di sbirri e dalla laguna, ma il dispiegamento di forze dell'ordine decisamente imponente ha sconsigliato che il tentativo prendesse forma e dopo un po' di slogan e promesse di rivedersi, lo striscione ha fatto dietro front, scegliendo di prendere in contropiede il dispositivo sbirresco dirigendosi verso Pistis. Superata l'ora di pranzo, il cielo terso era finalmente accompagnato da un piacevolissimo tepore autunnale. Il corteo, dopo circa un chilometro di strada asfaltata, ha girato in una fangosa stradina di campagna alla cui fine sono finalmente apparse le reti. Che avremmo invaso il poligono lo avevamo dichiarato, e così, mentre anche i compagni precedentemente bloccati al presidio riuscivano a raggiungere la manifestazione, tanti piedi affondavano nel fango con il cuore determinato e nelle mani le tenaglie facevano cadere decine di metri di rete, permettendo un nuovo ingresso di massa dentro il poligono, alla faccia di sbirri e militari. Mentre decine e decine di mani operose abbattevano le recinzioni militari, è riapparso il fastidioso rumore dell'elicottero, misteriosamente scomparso in precedenza. In lontananza sono apparse le camionette e poi i caschi dell'accelere che, insicuri di un attacco frontale in campo aperto, hanno fatto partire un fitto lancio di lacrimogeni al quale è seguito un ben più fitto lancio di pietre, necessario a far finire i tagli e a permettere un agevole rientro verso la strada asfaltata, dove il corteo si è ben ricompattato e con il tramonto alle spalle è tornato verso i bus. Ancora una volta l'ostinazione di compagne e compagni ha prevalso. Yeah. su questo brano sfuma un po', anche per presentare quello che stiamo ascoltando e che un po' abbiamo ascoltato già in precedenza durante l'intervento. La questione, insomma, è questa: noi stiamo ascoltando dei brani che fanno parte, ovviamente ci sono 30 band all'interno di questo CD, ed è un CD che era uscito una decina di anni fa grazie ad un'associazione slovena, la Zapriti Odelek, che è un'associazione culturale della zona di... sapevo che non mi veniva più in mente, della zona di Maribor, nord della Slovenia, e che comunque è un'associazione che ha deciso di uscire con questo CD dopo, insomma, vari brani raccolti in decine e decine di concerti che hanno fatto in quella parte della regione slovena. E ovviamente potrei anche dirvi dei nomi di gruppi e di band che ci sono, ma veramente di una trentina di queste band, siano 5 le conosco, che comunque non sono nemmeno slovene, comunque quasi tutte le band, che varie band europee che passavano in tour in quella zona, e ovviamente non fanno riferimento ad un posto solo, ma a vari posti che riuscivano ad organizzare dei concerti in quell'area lì. E a quanto pare, dopo anche lo sgombero di uno spazio che avevano a Maribor, e poi sono stati costretti, insomma, così per organizzare altri concerti, altri eventi, a farli in varie cittadine della zona. Comunque loro sono esattamente della cittadina di Slovenka Bistrica. Beh, comunque rimaniamo all'ascolto di queste band. E ora ascolteremo questi Dickless Tracy. E chiedo scusa ad un'aggiunta, ad una correzione che volevo fare a quanto detto di questo CD grazie all'associazione Zapriti Odelek, che comunque i brani all'interno non sono live dei vari concerti che hanno fatto, ma bensì proprio una compilation per pubblicizzare le varie iniziative di questa band e di questa associazione, dove ci sono 30 band tra Slovenia e Croazia. E come detto prima, la Zapriti Odelek ha sempre agito nella zona, nella regione di Maribor, ovvero nord Slovenia. quindi sono le 21:05 secondi dall'orologio dello studio di via Volturno a Udine di questo giovedì 21 aprile 2022. Siamo in onda con Zardins Magnetics, una trasmissione realizzata dall'Assemblea Permanente contro il carcere della repressione del Friuli e di Trieste. Questa sera, nella mezz'ora che ci rimane, vorrei cominciare così, prendendola alla larga, alcune così contributi riguardo una questione importante che appunto chi riceve le anticipazioni di Zardins Magnetics ha già visto. Insomma, l'argomento è rivendicare la libertà di vivere e la libertà di morire come si è vissuti e come si è vissute, ovvero questo è un argomento che ha riferimento in una dichiarazione collettiva di rifiuto del funerale religioso risalente a alcuni anni fa da parte dei componenti di un collettivo, del collettivo del centro sociale autogestito di Udine. Qualche anno fa, precisamente sono 6 anni fa, nel 2016, c'era la ricorrenza di un anniversario della nascita di un compagno di Maurizio Faidutti, e ci si era riuniti per un pranzo così conviviale, per una cena conviviale, ed erano, insomma, così era stata riproposta questa questione fondamentale, diciamo, per chi è appunto, non solo per chi ha vissuto questa vicenda specifica del compagno Maurizio Faidutti, ma per insomma è un tratto, possiamo dire, che identifica, insomma, le soggettività anarchiche, insomma, friulane, o quantomeno una certa componente di queste soggettività. E così, io non pretendo di esaurire stasera la questione. Ho pensato alcune, ecco, potrei dire, suggestioni che mi è capitato di fissare. Siccome si parla di libertà, di libertà di vivere per chi è in vita, libertà di morire come si è vissuti per chi non c'è più, ma la questione riguarda anche chi rimane, soprattutto chi rimane, e la libertà è per chi insomma nella sua vita cerca di praticare i principi e l'etica anarchica dell'anarchismo. La libertà è una questione, diciamo, fondamentale, no? Non è una cosa subordinata ad altro o, insomma, avvenire, diciamo, rispetto a altre questioni, diciamo, che le componenti non anti-autoritarie invece antepongono. Per noi anarchiche, anarchici, libertà è una questione fondamentale, anche se è sfuggente questo discorso della libertà. Io, per appunto iniziare con delle suggestioni, a premessa, diciamo, tutto questo discorso è che mi appoggio su autori che sicuramente non sono interni all'anarchismo, anzi sono anche lontani sicuramente. Volevo cominciare con una con dei testi, cioè con la lettura di testi tratti da un testo particolare che io avevo così, cui ero incappato anni fa, tanti anni fa, e un testo di un filosofo, diciamo, importante, si studiava quella volta all'università, Emmanuel Levinas. Il libretto si chiama Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo ed era un intervento fatto subito all'indomani della presa del potere da parte di Hitler, quindi mi sembra nel 1934, e poi è stato invece ripubblicato negli anni 90, prima in Francia, poi la traduzione insomma è apparsa anche qui nel 96. Quindi Levinas è importante oltre che come, diciamo, autore della tradizione filosofica, anche perché è stato testimone, cioè ha subito l'esperienza del internamento in un campo di sterminio. Levinas è un studioso, un filosofo di origine ebraica, e per questo motivo fu catturato, internato in un campo di concentramento nazista, e ne uscì diciamo vivo, insomma, come tutti i superstiti della Shoah. Diversi suoi cari e diversi suoi parenti non ne uscirono vivi. Questa cosa certamente ha segnato anche il suo percorso di studioso, sicuramente, insomma, la sua carriera. E in questo appunto intervento, che è stato ripubblicato nei primi anni 90 e che però risale, ripeto, al 1934, e si intitola Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo. Cosa succede? Viene messo così, sottolineata con grande, secondo me, intuito, una vicinanza imbarazzante tra quello che era, insomma, teorizzato dai nazisti e gli esiti, diciamo, della filosofia continentale del primo Novecento, che comunque si è riscontrata questa cosa, poi si è rivelata, diciamo, la questione della contiguità tra nazismo e certi esiti del pensiero continentale filosofico, e anche successivamente. Ma adesso andiamo al testo, così, insomma, che avevo scelto alcuni diciamo estratti, diciamo, da questo scritto, Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo. Le libertà politiche non esauriscono il contenuto dello spirito di libertà che, per la civiltà europea, significa una concezione del destino umano. È un sentimento della libertà incondizionata dell'uomo di fronte al mondo e alla possibilità che sollecitano la sua azione. L'uomo si rinnova eternamente dinanzi all'universo. Parlando in termini assoluti, l'uomo non ha storia. Perché la storia è la limitazione più profonda, la limitazione fondamentale. Il tempo, condizione dell'esistenza umana, è soprattutto condizione dell'irreparabile. Il fatto compiuto, travolto da un presente che fu, sfugge per sempre alla presa dell'uomo, ma grava sul suo destino. Dietro alla malinconia per l'eterno fluire delle cose, per l'illusorio presente di Eraclito, c'è la tragedia dell'inamovibilità d'un passato incancellabile che condanna l'iniziativa a non essere che una continuazione. La vera libertà, il vero inizio, esigerebbero un vero presente, che sempre al culmine di un destino lo ricominciasse eternamente. Il sentimento bruciante della naturale impotenza dell'uomo nei confronti del tempo costituisce tutta la tragicità della Moira greca, tutta l'acuità dell'idea di peccato e tutta la grandezza della rivolta del cristianesimo. Agli atridi, che si dibattono soffocati da un passato estraneo e brutale come una maledizione, il cristianesimo pone un dramma mistico: la croce affranca attraverso l'Eucarestia, che trionfa sul tempo, questa liberazione diventa quotidiana. La salvezza che il cristianesimo vuole portare vale come promessa di ricominciare il definitivo che si compie nel trascorrere degli istanti, di superare la contraddizione assoluta di un passato subordinato al presente, di un passato sempre in causa, sempre rimesso in questione. Questa libertà infinita rispetto a qualsiasi legame, per la quale insomma nessun legame sarà definitivo, è alla base della nozione cristiana dell'anima. Pur restando una realtà sommamente concreta che esprime il fondamento ultimo dell'individuo, ha l'austera purezza di un anelito trascendente. Attraverso le vicissitudini della storia reale del mondo, il potere di rinnovamento dona all'anima, come una natura non umenica, al riparo degli attacchi di un mondo in cui l'uomo concreto è tuttavia installato. Il paradosso non è che apparente, il distacco dell'anima non è un'astrazione, ma un potere reale e positivo di separarsi, di astrarsi l'uguale dignità di tutte le anime, indipendentemente dalla condizione materiale o sociale delle persone, non deriva da una teoria che affermi sotto le differenze individuali una somiglianza della costituzione psicologica, tra virgolette. È dovuta, questa uguaglianza di tutte le anime, è dovuta al potere dato all'anima dal cristianesimo, il potere dato all'anima di liberarsi da ciò che è stato, da tutto ciò che l'ha coinvolta, da tutto ciò che l'ha impegnata, per ritrovare la sua prima verginità. Se l'intuizione fondamentale del marxismo consiste nell'aver colto lo spirito dell'ineludibile rapporto a una situazione determinata, questa connessione non ha nulla di radicale. La coscienza individuale, determinata dall'essere, non è così impotente da non conservare, almeno in linea di principio, il suo potere di rompere l'incantesimo sociale, che allora apparirà estraneo alla sua essenza. Prendere coscienza della propria situazione sociale vuol dire, per lo stesso Marx, affrancarsi dal fatalismo che essa comporta. Una concezione veramente opposta alla nozione europea di uomo sarebbe possibile solo se la situazione a cui è inchiodato non si aggiungesse a lui, ma costituisse il fondamento stesso del suo essere. Esigenza paradossale che l'esperienza del nostro corpo sembra realizzare. Ora, il corpo non è soltanto l'eterno estraneo, L'interpretazione classica relega a un livello inferiore e considera come una tappa da superare quel sentimento di identità tra il nostro corpo e noi stessi che alcune circostanze rendono particolarmente acuto. Il corpo non c'è solamente più vicino o più familiare del resto del mondo, non determina soltanto la nostra vita psicologica, il nostro umore e la nostra attività. Al di là di queste banali constatazioni c'è il sentimento di identità. Non ci affermiamo in questo calore unico del nostro corpo ben prima che il pieno sviluppo dell'io pretenda di distinguersene, e non resistono forse ad ogni prova quei legami che ben prima che si schiuda l'intelligenza, il sangue ha stabilito in una pericolosa impresa sportiva, in un esercizio in cui i gesti richiedono una perfezione quasi astratta, a un soffio dalla morte. Ogni dualismo tra l'io e il corpo deve scomparire, e nella situazione senza uscita della sofferenza fisica il malato non sperimenta forse l'inscindibile semplicità del proprio essere quando si rigira nel suo letto di dolore senza trovar pace? Il corpo non è soltanto un accidente, felice o infelice, che ci mette in rapporto col mondo implacabile della materia. La sua aderenza all'io vale di per sé stessa. È un'aderenza alla quale non si sfugge e che nessuna metafora potrebbe far confondere con la presenza di un oggetto esteriore. È un'unione il cui tragico sapore di definitivo nulla potrebbe alterare. Tale sentimento di identità tra l'io e il corpo, che ben inteso non ha niente in comune col materialismo volgare, non permetterà dunque mai a chi prendesse le mosse da esso di ritrovare al fondo di questa unità la dualità di uno spirito libero che si dibatte contro il corpo a cui sarebbe stato incatenato. Per costoro, al contrario, è in questo incatenamento al corpo che consiste tutta l'essenza dello spirito. Separarlo dalle forme concrete in cui è già da sempre coinvolto significa tradire l'originalità dello stesso sentimento da cui conviene partire. L'importanza attribuita al sentimento del corpo, di cui lo spirito occidentale non ha mai voluto accontentarsi, è alla base di una nuova concezione dell'uomo. Il biologico, con tutta la fatalità che comporta, diventa ben più che un oggetto della vita spirituale, ne diviene il cuore, la voce misteriosa del sangue, gli appelli dell'eredità e del passato di cui il corpo è l'enigmatico portatore, perdono la loro natura di problemi sottoposti alla soluzione di un io sovranamente libero. L'io non dispone per risolverli che delle incognite stesse di questi problemi. Ne è costituito. L'essenza dell'uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà dell'io, ma al contrario prendere coscienza dell'incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo. Significa soprattutto accettare questo incatenamento. Allora, come dicevo, non commento questi testi che ho scelto, insomma è un invito a andare a rivederli. Oltre a questo punto, alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo di Emmanuel Levinas, avevo così selezionato alcune cose, insomma, piccole suggestioni da un'opera di Ernesto De Martino. Ernesto De Martino, insomma, appunto, ripeto, tutte cose, autori che non c'entrano granché con le cose che di solito trattiamo su questa trasmissione. Ernesto De Martino, insomma, è un autore, insomma, fondamentale degli studi antropologici della tradizione, diciamo, antropologica italiana. Ha operato, insomma, tra gli anni, soprattutto nel decennio degli anni 40-50, e ha rinnovato profondamente, insomma, anche sia l'approccio sia le pratiche di ricerca dell'antropologia. Non mi dilungo adesso a fare introduzioni improbabili su Ernesto De Martino. Fatto sta che viene stata ripubblicata un'edizione rinnovata di una sua opera molto importante del 1958, e all'epoca vinse anche il premio Viareggio per la saggistica. Il titolo dello suo studio è Morte e pianto rituale, dal lamento funebre antico al pianto di Maria. In questo librone De Martino continua, diciamo, il suo percorso di ricerca, che era iniziato con un altro libro che adesso mi sfugge il titolo preciso perché sto andando a braccio, ma comunque il punto è che in questo pianto rituale, morte e pianto rituale, viene rintracciata, diciamo, l'esigenza di, cioè no, viene rintracciato il fenomeno del lamento, cioè del pianto rituale, ovvero dei rituali, ovvero delle messe, diciamo, chiamiamole così, insomma, messe in scena, diciamo, delle drammatizzazioni, ecco, mi sfuggiva, drammatizzazioni compiute da soggetti non direttamente coinvolti cioè non parenti e nemmeno a volte neanche conoscenti del parente estinto, e di cui c'erano delle rimanenze nel sud Italia degli anni 50, si parla della Lucania specialmente, dove appunto veniva affidato a delle persone specifiche, cioè erano delle donne che si incaricavano di questa di espletare questo compito di lamentarsi in una certa maniera, di piangere e di compiangere appunto l'estinto. E quindi partendo, cioè almeno esponendo, diciamo, queste drammatizzazioni, esponendo tutte le singole modalità in cui avvenivano ancora questi pianti, questi lamenti, De Martino ricostruisce, insomma, cerca di ricostruire quello che potevano essere alle origini delle prime civiltà del Mediterraneo, i motivi per cui appunto il lutto veniva diciamo diffuso, veniva anzi affidato, veniva spostato su queste figure qui rituali, su queste attori, nel senso che performavano questo pianto, sì, queste lamentazioni, e lui le rintraccia appunto in questo suo concetto di crisi della presenza, ovvero per poter andare avanti dopo la perdita di una persona cara, la società, insomma la comunità micro, insomma a livelli più semplici, diciamo, meno appunto senza appunto prima della scrittura, scusatemi, mi sto impappinando, era solo per dire appunto, rintraccia appunto i motivi per cui viene affidato il pianto a queste donne, perché appunto ci vuole il tempo necessario a traslare il lutto da quelli che ne sono colpiti direttamente alla comunità, in modo che appunto il lutto non porti alla perdita completa della presenza, che questo sarebbe insomma irreversibile, colpire appunto si andrebbe in una perdita della presenza. Lui la caratterizza come varie, insomma, con le varie modalità, insomma, che analizzate dalla psicopatologia, dalla psichiatria di quell'epoca, e lo fa partendo appunto da appunto qua ci sono questioni più, diciamo, interne di storia anche della cultura, insomma, per cui De Martino decide di partire da un frammento di Benedetto Croce, dove appunto fra virgolette fatica di far passare la persona cara, che è già passata in un senso, nel senso della natura, insomma, che non c'è più, è passata in quel senso, però è ancora presente, diciamo, come salma, ma non è ancora passata come a livello culturale. Questa fatica costituisce quel vario dinamismo di affetti, pensieri, che va sotto il nome di cordoglio o lutto. Le civiltà del mondo antico hanno appunto sono andate incontro a un urto con quella che era una controparte loro, insomma, delle civiltà pagane, nella loro concezioni, in questo senso, ideologie della morte. L'ideologia pagana è andata a scontrarsi con la concezione cristiana. La concezione cristiana prevedeva che la morte, cioè il messaggio appunto del cristianesimo era così, messaggio fa ridere, ma insomma il cristianesimo portava a determinare la morte come una non realtà, cioè come una semplice apparenza, perché appunto tutto il culto dei morti delle civiltà precristiane, che sia si dica precristiane o pagane, stessa, insomma, per noi adesso è la stessa cosa, ma per i cristiani appunto il cristiano colpito dal lutto non doveva, cioè il lutto non doveva scatenare lacerazioni, e la morte era solo un passaggio, diciamo, in attesa della resurrezione. In seguito appunto a questi contrasti si sono originate, insomma, dei sincretismi, dice, insomma, comunque il saper piangere, dice, è un tema centrale delle civiltà religiose mediterranee. Il cristianesimo inaugura invece una crisi definitiva del pianto. Dice il pianto, De Martino dice che il pianto è un rito che permette ancora di riprendere, sì, il pianto intendeva quello dei paesi, insomma, cosiddetti arretrati della Lucania degli anni 50, permetteva di riprendere il modo in cui la dispersione e la follia che minacciano chi è colpito dal lutto furono moderate istituzionalmente, cioè viene istituzionalizzato, no, il lutto. Ecco il discorso che interessa a noi, che poi concludo insomma per stasera, era che appunto talvolta, ovvero quando l'istituto appunto del pianto comincia a entrare in crisi, vado a leggervi il testo, la crisi della presenza è da ricondurre al doppio volto dell'economico, che mentre per un verso è un positivo fra i positivi ed è esposto alla indebita intrusione degli altri positivi nella sua sfera, ovvero può intrudersi indebitamente nella sfera degli altri positivi, per un altro verso costituisce idealmente il positivo inaugurale, che distacca la cultura dalla natura e rende possibile, con questo suo distaccarsi, la dialettica delle forme di coerenza culturale. Ciò significa che nella misura in cui il distacco si compie in modo relativamente angusto, si configura l'esperienza di un divenire che passa senza e contro di noi funesto dominio dell'irrazionale, cioè di un cieco correre verso la morte. In generale, per alta e umanizzata che possa essere una determinata civiltà, resta sempre una sfera di possibilità esistenziali in cui si manifesta ciò che passa senza e contro di noi, cioè una sfera che non può essere fronteggiata da tecniche efficaci di controllo e di umanazione. Ora, quando si verifica in determinati momenti critici l'incontro, lo scontro con questa sfera, si profila il rischio di una tensione eccentrica, di una rottura, almeno nella misura in cui non si tratta più di scegliere tra i valori, ma di non poter scegliere proprio nessun valore, neppure quello che ci strappa dalla immediatezza del vitale e ci fa accedere nel regno della cultura. Ecco, e quindi questo è il rischio a cui va incontro ogni comunità. Il dispiegarsi delle forze naturali ciecamente distruttive, la morte fisica della persona cara, le malattie mortali, le fasi dello sviluppo sessuale, la fama insaziata senza prospettiva, racchiudono in date circostanze l'esperienza acuta del conflitto tra la perentorietà di un dover far qualche cosa e il funesto patire del non c'è nulla da fare, da intendersi non già come rassegnazione morale, ma come crollo esistenziale. Ancora una cosa ultima che volevo vedere se posso riuscire a rendere radiofonica, niente, poi secondo me no, io mi fermerei qui perché magari possiamo continuare meglio in una delle prossime puntate. Io per il momento vi ringrazio per la pazienza e attenzione, un saluto a tutte e tutti e la parola alla regia per i saluti da parte della regia. Mandi. Bene. siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz, come ha detto appunto, ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30. Ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Potete riascoltare questa trasmissione, anche quelle scorse, sul blog Zardins Magnetics Radio .noblogs.org, oppure scriverci anche nella posta elettronica esattamente a liberetutti @autistica.org, oppure scriverci direttamente in forma cartaceo alla casella postale 129 34121 Trieste, intestando ad Associazione Senza Sbarre. Bene, abbiamo ascoltato alcuni brani in sottofondo tratti dall'album dei Kalashnikov, che è un vecchio album che si chiamava Songs About Amore and Revolution. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.